Storiacce di Raffaella Calandra. Posso d'ufficio? Lasciali fare. Lettere anonime? No, solita quantità. Allora, che posso fare per te? E niente, dovrei allargare un po' la casa. Rialzare un piano su per terrazzina e ricavare due stanze. Non pensa che è così facile quello che tu costruisci sul terrazzo? Da due motivi di sicurezza. Poi ci stanno pure dei vincoli paesaggistici, ambientali. Vabbè, ma io ci ho buttato per te, Angelo. Gesù, io pensavo che io e te eravamo amici, Angelo. Ma noi siamo amici, cara. Ma io non ti posso far fare un abuso perché noi siamo amici. Angelo, ascoltami bene. Si è sempre fatto così, sempre. Questo è il problema, che si è sempre fatto così. Ora il no ad una veranda abusiva, ora la battaglia per il rispetto del territorio, ora la chiusura del locale dove si stava infilando la droga. È stato ammazzato per questo Angelo Vassallo, sindaco di Pollica, per aver imposto il rispetto delle regole e cambiato il suo paese, terra di mare cristallino e di gente semplice. La sua storia, raccontata anche in TV, la storia del sindaco pescatore, è diventata l'emblema degli amministratori minacciati, aggrediti e a volte appunto anche uccisi per quello che fanno e per quello che rappresentano. Ora infatti, nell'epoca dell'antipolitica dilagante, le aggressioni agli amministratori sono quadruplicate, perché in loro si vede il simbolo, il più delle volte a torto, della casta. Le minacce non arrivano soltanto da parte della criminalità organizzata, ma arrivano anche da cittadini che stanno vivendo situazioni di vita molto difficili e che vedono nei politici tout court la casta. Noi abbiamo registrato una quadruplicazione delle aggressioni anche fisiche verso queste persone, dentro e fuori del comune. E con questo allarme, dalla rocca di Acciaroli e davanti al suo mare cristallino, parte questa puntata di Storiacce. A qualcuno hanno bruciato l'auto, qualche altro si è trovato davanti casa un animale morto. Molti ricevono lettere anonime e spesso anche proiettili. Nei casi peggiori si passa all'incendio del negozio, della farmacia o della casa, ma non così di rado le intimidazioni sono diventate pure aggressioni fisiche e sono spuntate le armi, talvolta usate non solo per spaventare, ma proprio per uccidere. Come è successo ad Angelo Vassallo, il sindaco pescatore di Pollica, uno degli amministratori sempre più sotto tiro, in quest'Italia che con sempre maggiore violenza e frequenza si scaglia contro chi cerca di imporre le regole. Perché il filo conduttore di storie diverse, di diverse parti del paese, è proprio l'opposizione di chi non accetta cambiamenti e limitazioni. E questo è quello che di sicuro si può dire dell'ex primo cittadino di Pollica nel Cilento, terra di mare cristallino e di dieta mediterranea, come dicevamo. Si può dire che fu ucciso per aver svolto troppo bene il suo mandato. Ma i suoi nemici restano in gran parte oscuri, riflette il figlio, Antonio Vassallo, che non può non associare alla trasmissione su Rai 1 del film In memoria del padre quell'incendio doloso scoppiato in modo strano per una sera d'inverno nelle stesse ore. I ricordi sono sempre tristi perché oggi papà non c'è più, però voglio considerarlo una serata piacevole, il fatto che comunque si è data la possibilità di far conoscere ancora di più la straordinaria figura di papà. All'interno della comunità, questo omaggio alla figura di suo padre, come è stato accolto? Abbiamo visto anche nel film, ricordato anche i momenti in cui la sua attività di cambiamento rispetto al passato era stata anche non sempre ben accolta, diciamo. La comunità ha apprezzato moltissimo la realizzazione di questo progetto, e poi è normale che ci siano i complimenti, ci siano le critiche, ma questo è normale. Papà è riuscito a fare molte cose davvero importanti, tra queste è riuscito a stravolgere un territorio, far capire ecco che si può fare molto di più. Ne vediamo vicinanza da parte di tutta la comunità, non riusciamo a vedere nemici in tutta questa storia, forse è proprio questo il punto. Mentre guardavamo la fiction, è stato appiccato un incendio nel nostro comune, cose che non capitano nel periodo invernale. Questa qui è stata una cosa molto molto strana, ma noi non abbiamo la minima idea di cosa possa essere successo nella frazione del comune di Pollica. Avete pensato che questo incendio possa essere collegato alla fiction su suo padre? Non vorrei azzardare a dire niente, però è strano, è stato strano e naturalmente ci siamo riguardati in modo strano, perché non è una cosa che succede nel periodo invernale. E quindi questo vi fa sospettare che possa essere qualcosa ancora da collegare alle vicende su suo padre? Ma può darsi di sì. Può darsi di sì. Ma voi avete avuto qualche tipo di ripercussione, di minaccia, di qualcosa dopo la morte di vostro padre? Ma né prima né dopo. Noi dobbiamo dire che non conosciamo ancora il nemico. E la vera difficoltà di tutto questo, ecco, è proprio concentrata su questo punto, che in realtà noi a 5 anni ancora non conosciamo chi è il nostro nemico. E il nostro nemico è chi è che quella sera del 5 settembre stava di fronte a papà. Fino ad ora elementi certi non ce ne sono stati. Oggi, 5 anni dopo la morte di suo padre, immagino che abbiate ripensato 1000 volte a tutti i mesi che hanno preceduto quel delitto. Qualche segnale lo avete avuto? In realtà lui parlava molto poco soprattutto dei suoi problemi. Il motivo per cui oggi mio padre non c'è più è perché rappresentava il territorio. Ha cercato di mettersi davanti a qualcuno che non so se poteva essere lo spacciatore di turno o altro. Fatto sa che se non c'è più è perché faceva il sindaco. Per quanto riguarda il resto, sì, abbiamo fatto pensieri su pensieri, abbiamo lasciato diverse deposizioni di inquirenti, però non ha mai manifestato forme di paura nei confronti di persone che magari lo avevano potuto minacciare. No, era tranquillo, in quel periodo si era dedicato alla sua passione, che era la pesca, cosa che nei periodi precedenti non aveva mai fatto, negli anni prima neanche. Ucciso perché faceva il sindaco, e lo faceva bene. Alla fine si può sintetizzare così il perché della morte del sindaco pescatore, del sindaco paladino della legalità. I frammenti delle indagini fanno ipotizzare infatti che il suo delitto possa essere legato ad un'azione di contrasto al tentativo di introdurre un giro di droga nel suo paese. E questo dicono anche i profili dei primi due indagati, i fratelli Bruno Humberto Damiani, catturato in Colombia con un mandato di cattura internazionale, Stefano Damiani. Avrebbero tra l'altro anche minacciato una terza persona, secondo le accuse della procura, perché non parlasse. Ma quali segreti e quali misfatti o interessi ancora si nascondono dietro la morte di un sindaco che amava solo la sua terra? Il movente dell'omicidio di Angelo Vassallo è, insomma, ancora tutto da scrivere. Purtroppo tutti noi spesso scopriamo le fatiche, le resistenze e i rischi di certi amministratori, soprattutto di piccole realtà, solo quando vengono ammazzati, come in questo caso, o quando subiscono minacce così forti da conquistare titoli di giornali. Solo quando, insomma, a volte è troppo tardi. E questa, come sentiremo nella seconda parte, è una delle ragioni che aumenta l'isolamento di certi amministratori onesti in contesti difficili e li rende più vulnerabili. Eppure, le storie degli amministratori sotto tiro sono pericolosamente in aumento, denuncia Avviso Pubblico, associazione che ha portato il proprio monitoraggio anche in Parlamento, e sono in aumento anche come effetto della dilagante ondata di antipolitica. Il coordinatore di Avviso Pubblico, Pierpaolo Romani. Noi nel nostro ultimo rapporto abbiamo censito 361 atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali, praticamente uno al giorno. Il primo mese di gennaio, dove abbiamo contato 30 episodi di intimidazione e minacce gravi, ancora una volta con una forte concentrazione al sud, ma con dati pericolosamente in aumento anche nel nord, in particolar modo nel nord-est d'Italia. Che cosa c'è dietro questi numeri? Che storie? Che tipo di minacce? Per quanto riguarda la tipologia di intimidazione, quella più ricorrente, specialmente nei territori del sud, è quello dell'incendio, in particolar modo alle macchine di proprietà personale degli amministratori locali, oppure alle loro case, oppure a dei mezzi, in particolar modo gli autocompattatori, i mezzi di raccolta dei rifiuti, o addirittura si arriva a colpire gli scuolabus. Al centro-nord invece prevalgono le lettere anonime, che contengono spesso minacce di morte, negli ultimi tempi sempre di più anche bossoli di arma da fuoco. In genere le minacce arrivano anche da cittadini che vedono nei politici tukur la casta. Noi abbiamo registrato una quadruplicazione delle aggressioni anche fisiche verso queste persone. Quindi aggressioni anche fisiche contro sindaci, assessori, consiglieri, perché identificati come casta, anche se casomai sono consiglieri, amministratori di piccole realtà che, diciamo, di sicuro non vivono col gettone, con lo stipendio come amministratore. Anzi, devo dirle di più che queste persone molto spesso mettono soldi di tasca propria, rinunciano a qualsiasi forma di rimborso. Un'ondata crescente negli ultimi tempi anche della opposizione alla politica e ai politici in quanto tale può essere messa in correlazione con l'aumento delle aggressioni agli amministratori? Sicuramente questo ha contribuito, perché c'è stata anche una rappresentazione mediatica dal nostro punto di vista anche particolarmente spinta verso l'idea che i politici nella maggioranza dei casi sono protagonisti di scandali, di ruberie e quindi di ingiustizie. Si fa, come si suol dire, di tutta un'erba un fascio, cioè anche se ci sono tanti casi gravi di corruzione all'interno delle amministrazioni pubbliche, però ecco, tutti gli amministratori vengono associati con questa idea, anche se poi appunto ognuno ha la sua storia. Anche se di una parte, ma certamente minoritaria, di queste minacce può essere generata anche dal fatto che qualcuno in campagna elettorale ha promesso cose a qualchedun altro e poi non è stato in grado di mantenerle. Ci può anticipare qual è il senso del rapporto del 2015? Quello di un trend ulteriormente in aumento delle cifre, degli atti di intimidazione e di minaccia, con delle situazioni particolari. E nel mese di gennaio la Calabria è stata una regione letteralmente sotto assedio, in particolare modo la provincia di Reggio Calabria, dove sono stati colpiti addirittura non una volta ma due volte alcuni comuni. Penso al comune di Gioiosa Ionica e al sindaco Salvatore Fuda, dove hanno sparato alle macchine di sua proprietà sotto l'abitazione, poi hanno incendiato due autocompattatori per la raccolta di rifiuti. Ma penso a Pasquale Amato, il sindaco di Palma di Montechiaro. Quattro minacce dirette nel 2015, ai primi del 2016 quattro autocompattatori utilizzati nel momento in cui lui con la sua amministrazione attiva un sistema nuovo di raccolta di rifiuti per fare in modo, ecco, che si possa risparmiare e garantire un miglior servizio alla collettività. Ci sono tanti modi per tenere sotto tiro un amministratore sgradito, uno che vuole cambiare le regole, ci sono le minacce esplicite, ci sono i messaggi in codice, oppure c'è la terra bruciata formata intorno a lui, quando gli amministratori onesti vengono trasformati in appestati, come fu il caso di un sindaco calabrese. E poi ci sono le loro fatiche, le fatiche di questi sindaci che non riescono a far sentire la loro voce fino a Roma. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Storiacce. Che significa combattere le mafie in terre difficili? Sembra uno slogan per manifestazioni, cortei o per bei discorsi, ma poi ci sono i fatti concreti. E allora le mafie si contrastano, dicendo no a quella veranda abusiva a strapiombo sul mare. Si possono contrastare le mafie impedendo lo sfruttamento del lavoro nero. Si possono bloccare evitando di favorire gli amici a scapito di altri, nelle concessioni edilizie o nelle ordinanze, ad esempio, o smettendo di chiudere un occhio, cercando insomma di far rispettare le regole del vivere collettivo. Ma non pensate che sia così semplice e così scontato, e che tutto questo non possa avere delle conseguenze o dei rischi anche gravi, soprattutto in certe zone come la Calabria, una delle terre più difficili anche per gli amministratori, che tra l'altro devono superare l'ulteriore scoglio di far riuscire a sentire la propria voce. Come ben sa Maria Carmela Lanzetta, ex ministro e già sindaco di Monasterace, dove le bruciarono la farmacia e l'auto e dove ora è tornata quando ha lasciato l'incarico di governo. Avevo proprio istituito dei tavoli. Un tavolo riguardava quello dei piccoli comuni, in modo tale da sentire da loro stessi quelle che erano le difficoltà che poi avrebbero dovuto tramutarsi in provvedimenti legislativi utili a migliorare le cose sui territori. Non mancano appunto le intimidazioni e le minacce agli amministratori, spesso anche proprio delle realtà più piccole. Lei stessa l'ha sperimentato personalmente quando le bruciarono la farmacia. Noi abbiamo aperto il 2015, io l'ho aperto da ministro, andando a portare insomma la presenza del governo al comune di Brancaleone, il cui sindaco, l'avvocato Moglio, aveva avuto due macchine bruciate, e ho finito l'anno da persona normale partecipando al Consiglio Comunale di Gioiosa Ionica, dove il sindaco ha subito diverse ripetute intimidazioni, tra cui il rogo dell'autobus che porta i bambini, dello scuolabus. A parte il fatto che pochi giorni fa sono stati bruciati a Locri 14 autobus della ditta Federico, certo. E quegli autobus servono per il trasporto nei paesi interni. Questo insieme di fatti danno angoscia al primo cittadino, agli amministratori, a coloro che supportano con notevole sacrificio personale l'azione di cambiamento del proprio comune, e molti amministratori sono stati colpiti a livello personale. Il sindaco Vassallo è stato ucciso e, come lui, altri sindaci in Italia. Però conferma anche un po' il caso dei rischi che può correre un amministratore in una situazione di isolamento. Il sindaco poi soffre di una terribile solitudine. Dopo gli attentati è ancora più solo, anche se durante i consigli comunali la popolazione naturalmente si avvicina al suo sindaco, anche se nei primi giorni riceve l'attenzione dei giornali e della stampa nazionale, però poi alla fine si ritrova da solo, lui e la sua famiglia, lui e le difficoltà da affrontare in comune. Cioè è un isolamento in cui più facilmente può maturare a violenza concreta. Il resto d'Italia deve comprendere questo stato di cose, quest'aria che tira intorno ad un'amministrazione comunale per bene, che invece subisce intimidazioni, attacchi, lettere anonime. Il fatto che sia stato bruciato il camion della spazzatura non significa che quello sia stato un fatto isolato. Prima hanno sparato alla macchina del sindaco di Gioiosa, poi prima ancora avevano incendiato la spazzatura vicino alla sua casa. Insomma, è un crescendo e non è tollerabile in uno stato democratico come l'Italia. Sembra quasi venire fuori un racconto di una terra quasi persa, quella della Calabria. La Calabria ha tantissime difficoltà, i giovani vanno via, i fatti intimidatori si susseguono, è necessario che i cittadini acquistino l'autostima di se stessi. L'Italia la sta un po' perdendo, la Calabria. Sì, sì, è necessario che quella terra venga ripresa e possa risalire la china, perché questo è un momento di grave difficoltà. Soffrono delle minacce subite, ma soffrono anche dell'isolamento i sindaci che provano a cambiare le cose e finiscono per essere considerati degli appestati, gente cioè da evitare, da non frequentare, gente con cui non parlare, gente da contrastare con l'opposizione dichiarata, ma ancor di più col muro di silenzio attorno. E proprio così, un appestato ci raccontò di sentirsi Domenico Luppino, già sindaco di Sinopoli in Calabria, quando il suo impegno anti-ndrangheta venne contrastato pure dai suoi amici. Dalle nostre parti c'è una regola che credo riguardi molte realtà del Mezzogiorno d'Italia. Si perdona tutto a un individuo, ma raramente si riesce a perdonare l'individuo quando questo individuo rompe determinate realtà parlandone e quindi divenendo un infame. Ecco, la parola infame e l'essere infame praticamente costringe l'individuo ad essere isolato, l'individuo viene isolato dal resto della collettività perché certe cose, certi argomenti, la stessa parola 'ndrangheta bisognerebbe nominarla o parlarne o dirla raramente, insomma non parlarne molto, e allora se uno ne parla, se uno tira fuori questo che è la madre di tutti i problemi della nostra terra, diventa giocoforza un appestato, diventa una persona da evitare e quindi da isolare, da tenere lontana da tutto e da tutti. E non riguarda solo il piccolo ambiente che può essere quello di Sinopoli, ma riguarda i contatti che uno può avere con l'intera provincia. È qualcosa di abbastanza generalizzato e riguarda e abbraccia tutte le classi sociali. Qui c'è una commistione tra potere mafioso, potere politico, potere mafioso, il potere economico e via dicendo, insomma. Ci faccia degli esempi, che vuol dire essere isolato? Lei quando ha avuto la percezione che la stavano isolando? Ma io ho avuto la percezione nel momento in cui i miei consiglieri si stavano dimettendo. Due dei miei consiglieri sono venuti qua da me prima di dimettersi, che erano quelli insomma che erano più vicini a me o che credevo fossero più vicini a me, e mi hanno detto: i consiglieri si stanno per dimettere, gli altri consiglieri. Noi avremmo pensato che forse è meglio che ci dimettiamo pure noi. Allora io dissi: ma perché vi dovete dimettere pure voi? Lasciate che si dimettano loro. E loro mi risposero: ma perché così dimostriamo che noi con te non abbiamo nulla a che vedere. E da quel momento cominciai a capire e a percepire più che non prima che sarei rimasto da solo da quel momento. E poi difatti poi così è avvenuto. Ma come venivano considerati nell'antichità? Quanti avevano il compito di gestire la res pubblica, il bene pubblico? Cioè, ce lo racconta come sempre a questo punto Giorgio Giorano, professore all'Università di Trento, nelle nostre mitiche storiacce. Mitiche storiacce. Quando dovevano citare l'esempio di un amministratore onesto e incorruttibile, i greci facevano sempre lo stesso nome. Il nome dell'ateniese Aristide, o Aristide come più spesso viene chiamato, vissuto 2500 anni fa. Uno che non rubava i soldi dei cittadini, spendeva i fondi pubblici con oculatezza, guardava innanzitutto al bene comune. Poi però precisavano subito che uno come Aristide era un'eccezione. Chi ha in mano un potere grande o piccolo fatica a essere onesto, a non piegarsi a lusinghe o minacce. I peggiori criminali, scriveva Platone, si trovano tra i potenti, perché è difficile vivere onestamente quando si ha la possibilità di commettere ingiustizia. Sono pochi gli uomini capaci di amministrare onestamente i beni loro affidati. Così diceva Platone, che tra quei pochi fa appunto anche il nome del nostro Aristide, che ebbe una vita politica complicata. A un certo punto gli ateniesi lo mandarono in esilio con quella procedura chiamata ostracismo, che consisteva nello scrivere il nome del cittadino che si voleva bandire su un coccio di argilla, ostracon appunto. Si racconta che un ateniese chiese ad Aristide, non riconoscendolo: amico, io non so scrivere, mi scrivi sul coccio il nome di Aristide. Ma perché vuoi esiliarmelo? Gli chiese Aristide. Non lo so, però mi sono stufato di sentire tutti quanti ripetere che è così onesto. Insomma, Aristide scrisse sul coccio il suo stesso nome e se ne andò ad Atene nel 482 a.C. Poi gli ateniesi lo richiamarono. Essendo onesto, non si arricchì mai. Morì senza lasciare gli eredi neppure i soldi per i funerali. Glieli dovette pagare lo Stato. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ci trovate anche sulla pagina Facebook di Storiacce o sul blog. Su Twitter, invece, l'account è Raf Calandra. Ciao a tutti, a presto!